Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Beh, continuano a tenere banco le dichiarazioni che ha reso questa mattina ai nostri microfoni, ospite di Nove in Punto, il premier uscente Mario Monti, anche e soprattutto su chiaramente Monte dei Paschi. Però non solo, perché su Monte dei Paschi Monti non ha escluso la nazionalizzazione, cioè l'intervento dello Stato, ha detto che si tratterebbe di un'estrema razio, di un rimedio estremo, di una misura estrema, non certo la soluzione. La vigilanza c'è stata, ma hanno occultato i documenti. Parleremo chiaramente anche di Monte dei Paschi, che sta diventando un po', come abbiamo visto anche altre volte purtroppo, penso a Parmalat, ma non solo, sempre di più sta apparendo un filone sempre più giudiziario e sempre meno borsistico finanziario, nel senso che da Siena si attendono sviluppi a breve e soprattutto potrebbero anche arrivare degli arresti. Parrebbe che c'è chi sta parlando nel dettaglio su varie operazioni finanziarie. Non c'è solo il ruolo avuto da Dresdner Bank e da questa società esterna che faceva da intermediazione, con l'accusa e le ipotesi che i manager di Monte dei Paschi si siano arricchiti in maniera impropria e indebita tramite queste operazioni, che vi fossero queste consulenze servissero altro che a mascherare delle tangenti occulte, ma poi c'è tutto il fronte senese. Di questo parleremo chiaramente, come sempre, a ridosso dei mercati. I mercati che oggi sono scossi, dicevo, non solo dal Monte dei Paschi, che comunque oggi prende un'altra sberla, meno 9,30%, torna a 24 centesimi di euro per azione, ma anche e soprattutto dal gruppo Eni. Che cosa è successo? Allora, Eni perde il 4,5%, che è tantissimo per il titolo. Perché? Perché Saipem, che sta trascinando con sé assieme a Monte dei Paschi tutta la borsa, è arrivata a perdere, in questo momento perde il 34%. Ha bruciato in borsa quasi 4, il calo complessivo oggi, la borsa perde 3% e di quasi 4 miliardi e mezzo di capitalizzazione. Praticamente la quota del 43% che il tesoro ha dentro Eni in questo momento vale 1 miliardo e 900 milioni in meno. La capitalizzazione scende da 13 miliardi e mezzo a 9 miliardi. Che cosa è capitato su Saipem? Beh, che hanno annunciato, molte banche hanno dato giudizio di vendere nei confronti del titolo Saipem dopo l'abbassamento delle stime annunciato ieri dalla stessa società. Lo hanno fatto tantissime banche che o consigliano di vendere o hanno fatto cambiare il giudizio da tenere a da comprare a tenere, quindi un peggioramento del giudizio. Tra l'altro la Consob ha avviato accertamenti sull'operazione di collocamento del 2,2% di Saipem realizzata da Bank of America Merrill Lynch per conto di un cliente istituzionale prima dell'annuncio dell'avviso di utili in calo diffuso ai mercati chiusi ieri. Perché? Perché insomma è un po' sospetto, mettiamola così, che un titolo che si venda una quota importante, perché il 2,2% di Saipem è una quota importante, poche ore prima l'annuncio invece di utili in calo. Il dubbio è che qualcuno possa saperlo o potesse saperlo prima. Lo hanno riferito fonti della commissione della Consob all'agenzia di stampa Radio Core. In merito all'andamento del titolo, la Consob avrebbe avviato anche i necessari monitoraggi. Questo per quello che riguarda Saipem. Ha escluso invece Fidelity di avere il fondo Fidelity, un fondo britannico, di essere stato lui a cedere la quota del 2,3% di Saipem. Saipem è il caso di borsa, meno 34-38%, dicevo, Saipem, Eni e Monte dei Paschi penalizzano moltissimo Piazza Affari, ma anche Fiat, meno 4 come Finmeccanica, il 3,80 lo perde la Popolare di Milano, il 3,70 Mediaset, il 3,5 il Banco Popolare, il 3,30 il calo di Unicredit, il 2,70 quello di A2A. Complessivamente, dicevamo, la borsa perde il 3,13% ed è nettamente la peggiore in Europa, perché Parigi perde lo 0,40%, Francoforte lo 0,50%, Londra lo 0,17%, l'America è sostanzialmente invariata. Parleremo quindi di Saipem, di Monte dei Paschi, ma anche di Fiat. Dicevamo, Fiat intesa come auto, meno 4,23%. Varie dichiarazioni oggi sia di John Elkann che di Sergio Marchionne nel presentare il nuovo stabilimento Maserati, dove verrà prodotta da Ghibli, e anche le dichiarazioni hanno riguardato però anche e soprattutto il ruolo della politica e la presenza permanenza di Fiat in Italia. Rapidamente le altre notizie in breve. Altre notizie, partiamo come sempre dall'estero, il dato americano sull'andamento dell'economia. Allora, sotto le attese l'ultimo trimestre dell'anno scorso, meno 0,1%, tutti si attendevano un più 1,1%. È il primo calo trimestrale del PIL americano dal 2009, ha pesato, stando a quello che riportano gli analisti, soprattutto il taglio delle spese militari. Obama ha tagliato le spese militari portandole ai minimi dal 1972. L'economia nel 2012, l'economia a stelle e strisce, comunque è cresciuta del 2,2%. E invece è calata più delle attese la Spagna. Nel 2012 il PIL spagnolo è diminuito dell'1,37%. È praticamente sei trimestri di fila che la Spagna continua a avere il segno meno sulla sua economia. Veniamo all'Italia, lo spread è tornato sotto i 250 punti base, insomma è stabile, ieri era 251, oggi 249. Il Tesoro ha collocato altro debito oggi, ha collocato 6 miliardi e mezzo di BTP a 5-10 anni con tassi in discesa. Devo dire che tra le poche buone notizie che arrivano c'è proprio quella sul rifinanziamento del nostro debito, quanto lo stiamo pagando. Perché i tassi sono in discesa, dal 4,48% dell'asta di dicembre siamo scesi al 4,17%, il livello più basso dall'ottobre del 2010, e sui 5 anni dal 3,26% siamo scesi al 2,94%, anche qui siamo ai minimi dal 2010. Un dato in controtendenza, per quanto vada preso con le pinze, riguarda le nostre imprese, perché il dato sulla fiducia registrato dall'Istat vede, dopo tre cali consecutivi, una leggera ripresa della fiducia degli imprenditori, salita da 75 punti di dicembre a 79,9, e il centro studi Confindustria ha rilevato un incremento della produzione industriale dello 0,3% a gennaio su dicembre. A questo punto però, dal picco pre-crisi, cioè dai livelli precedenti lo scoppio della crisi nel 2008, siamo ancora sotto, no, questo per dire a che punto ci troviamo del guado, siamo ancora sotto del 24,5%, cioè meno 24% nella produzione industriale attualmente rispetto ai livelli che aveva prima dello scoppio della crisi. Vuol dire che siamo mangiati un quarto della produzione industriale italiana. Dicevamo dell'intervento di Mario Monti oggi a Radio 24, programma 9 in punto. Gli è stato chiesto se, insomma, ha cambiato idea sulle tasse, visto che prima le ha messe e adesso invece ha annunciato che se andrà al governo è tutto un piano di riduzione delle tasse. Sentiamo la risposta di Monti. Può darsi che sia sembrato troppo brusco. come Presidente del Consiglio ho dovuto difendere con le unghie ciò che abbiamo deciso di fare nei momenti dell'emergenza, e quindi prima che venisse ben consolidata la situazione finanziaria italiana avrei visto negativamente che ci fossero riduzioni premature delle tasse. Adesso stiamo parlando non di cosa fare nei prossimi 6 mesi o cosa fare nei prossimi 12 mesi, che era la prospettiva che, ahimè, avevamo quando eravamo al governo e eravamo sul finire di una legislatura. No, adesso stiamo discutendo con gli italiani sulla prospettiva per i prossimi 5 anni. Questi 5 anni cominciano con uno zoccolo di riforme strutturali avviate, dalla riforma del mercato del lavoro alle liberalizzazioni, che promettono seria e reale crescita se non verranno interrotte. Quello che mi sembra importantissimo è di non invertire il percorso della cultura della stabilità, cioè che non è col disavanzo pubblico che si fa crescita, quindi non è con la spesa pubblica, come certi piani che abbiamo ascoltato in questi giorni, che si fa crescita. Si riferisce alla CGIL, immagino. Si vede che sono stato abbastanza esplicito. Questo è un passaggio dell'intervista, appunto, dell'intervento di Mario Monti questa mattina a 9 in punto. Ancora in tema di tasse, però, e ne parleremo perché oggi è la giornata che il Sole 24 Ore dedica con l'iniziativa annuale Telefisco ai temi proprio fiscali, faremo un bilancio alla fine del programma. Questa mattina è intervenuto il direttore dell'Agenzia delle Entrate Attilio Befera per l'edizione, appunto, 2013 di Telefisco, stimando in oltre 12 miliardi gli effetti nel 2012 della lotta all'evasione. Noi abbiamo dei dati ancora non definitivi del 2012 che ci dicono che abbiamo superato la soglia dei 12 miliardi, l'anno scorso erano 12,7. È chiaro che abbiamo vari effetti. Innanzitutto lo risentiamo più sul lato dei ruoli, questo perché Equitalia nei primi 6 mesi, in effetti per tutta una serie di vicende ben note, ha un po' arrancato. Tra l'altro sono state fatte modifiche normative che hanno comportato modifiche procedurali. Negli ultimi mesi ha ripreso un ritmo abbastanza buono. C'è un effetto crisi notevolissimo. Noi abbiamo concesso quasi 2 milioni di rateazioni, parliamo di Equitalia, per 22 miliardi. Che ovviamente significa un incasso nel tempo garantito o comunque tranquillo, una possibilità da parte dei contribuenti in difficoltà di pagare più tranquillamente, però significa comunque ridurre il monte di incassi immediato. Vediamo anche nel lato accertamento con adesione una forte richiesta di rateazione, e forse anche lì normativamente bisognerà intervenire per cercare di dare un po' più di respiro, almeno in via transitoria, fino a che la crisi colpirà ancora. E quindi questi effetti comunque poi si sentono anche nelle adesioni, perché magari non si aderisce perché non si ha la liquidità per aderire. Ci sono problemi di questo genere, la macchina comunque funziona perché continuiamo a essere sopra i 12 miliardi, quindi i risultati sono positivi. Così, appunto, il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate Attilio Befera. Vicenda Monte dei Paschi, già vi anticipavo un passaggio dell'intervento di Mario Monti, anche qui si è toccato il tema della nazionalizzazione. Devo correggere un ascoltatore che dice: ieri avete fatto credere che Profumo desse per scontata la nazionalizzazione. No, guardi, mi dispiace se hai capito male, ma abbiamo citato testualmente le parole pronunciate dal presidente del Monte dei Paschi, Alessandro Profumo, il quale ha detto: in via di principio non si può escludere. Io ho fatto solo notare che quando iniziano a esserci un po' di dichiarazioni, Polillo, Profumo, oggi Monti, che dicono estrema razio, non si può escludere, così, insomma, no? Preferirei che nemmeno se ne fosse parlato. Però è chiaro che in questa situazione nessuna ipotesi, da quello che capiamo, può essere completamente esclusa, come ha ricordato lo stesso Presidente del Consiglio uscente. Diminuzione della quota della fondazione nel capitale del Monte e aumento della quota dello Stato, in ultima analisi, se capisco bene, nel capitale del Monte, potrebbe essere una extrema ratio, potrebbe rivelarsi inevitabile se il Monte fosse e perdurasse in difficoltà gravi dal punto di vista dell'equilibrio patrimoniale, ma vorrebbe dire in sostanza una parziale nazionalizzazione. Ora, in passato anche le banche di Stato davano luogo a intrecci di fatto tra banca e politica, quindi stiamo attenti a non farci prendere da una prospettiva troppo angusta, eliminare un male di oggi per ricadere magari in un male che storicamente è stato ancora peggiore. Ancora una notizia in breve riguarda la Fiat, poi ne parleremo ampiamente nella seconda ora, perché appunto inaugurato a Grugliasco lo stabilimento Maserati, Marchionne ha detto che inizia una nuova era per la Maserati e ha anche precisato che non verranno chiusi stabilimenti in Italia. L'utile netto della Fiat oltre le attese nel 2012 è 1 miliardo e 400 milioni, i ricavi a 84 miliardi più 12%, nessun dividendo verrà comunque distribuito agli azionisti. E Chrysler ha chiuso il 2012 con un utile netto di 1 miliardo e 7 e i ricavi sono saliti del 20%. Vanno bene le vendite Chrysler, più 18%, bene soprattutto negli Stati Uniti, 2 milioni e 200 mila vetture vendute. Marchionne ha poi detto basta usare la Fiat per fini politici. Non intendo entrare nelle polemiche recenti, sono l'ennesima prova che la Fiat viene usata per fini politici e questo purtroppo succede in un momento particolarmente delicato per l'Italia. Confondere i compiti e le responsabilità del mondo politico con quello dell'industria, usarne una per coprire l'altra, non solo è assurdo, è soprattutto dannoso. Possiamo usare la Fiat per ridare all'industria italiana un futuro diverso e molto migliore, possiamo usarla per il contributo che può offrire in termini di investimenti. Sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, drag e più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, drag e più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, Allora, mi dispiace deludere un ascoltatore che da quando ho iniziato la diretta continua a scrivere: scommetto che non parlerà degli avvisi di garanzia per i 29 consiglieri della Regione Lombardia della minoranza, e quindi del PD, di SEL, dell'Italia dei Valori, dell'UDC. Mi dispiace deluderla, abbia un po' di pazienza la prossima volta, non si agiti così tanto, e infatti abbia il pudore di dirlo, no, lei abbia il pudore di avere pazienza, io ci stavo arrivando. Allora, ci sono nuovi aggiornamenti sui 29 avvisi di garanzia che gli uomini della Polizia Giudiziaria di Milano stanno notificando, l'hanno fatto in queste ore ad altrettanti consiglieri regionali dei partiti di opposizione accusati di peculato nell'ambito dell'inchiesta sulle spese fatte con i rimborsi regionali. Insieme all'avviso di garanzia molti indagati riceveranno anche un invito a comparire. Nel pool degli inquirenti, in 29 fanno parte, ripeto, a PD, SEL, IDV e UDC. Anche qui il procuratore aggiunto Alfredo Robledo ha già indagato 62 consiglieri della maggioranza PDL Lega. Adesso è toccata quella dell'opposizione. Il tipo di spese effettuate nel quadriennio 2008-2012. Il sospetto della procura è che invece che essere rimborsi dell'attività politica fossero rimborsi per attività private e personali. Devo dire che io capisco tutto, ma spendere 1.000 euro come ha fatto il PD per in cadeau, in regali per la festa della donna, e vabbò, 1.600 euro per l'Italia dei Valori per ordinare 100 copie del volume Italico Risorgimento, 300 euro l'8 marzo 2012 sempre l'Italia dei Valori per 100 mazzolini di fiori. Va benissimo, anzi andrebbe fatto tutte le settimane regalare i fiori alle donne, a una donna, ma non con i soldi nostri, porca miseria. Se devi fare sto regalo, perché l'8 marzo usa i soldi tuoi. E poi va bene, 350 euro la trattoria Tullio. 431 euro per l'acquisto di ficus e altre piante. Ma perché devo pagare io, Lombardo, le piante per il PD? 566 euro devoluti, beh, devoluti mica tanto, pagati a un bar pasticceria a Ponte San Pietro. 600 euro di piadine. Piadina non mi sembrava che costasse così tanto, alla piadineria artigianale di Senago. Vabbè, vedremo che cosa emergerà anche da qui, ma il messaggio e il segnale non è sicuramente bello. Noi adesso andiamo con il primo tema di questa puntata, che si chiama Oggi Borsa, nel senso che la borsa, al di là dell'andamento dell'indice, oggi vive dei casi molto molto particolari. Monte dei Paschi ne parleremo alle 18, ma l'altra notizia di oggi forte riguarda appunto Saipem. Ha perso in borsa oggi un terzo, più di un terzo del suo valore, 34% in meno, ha chiuso a 19,98 euro. La pagina di Focus Economia su Facebook è il 349-238-6666 per i vostri sms, sono i due modi con cui potete comunicare con questo programma. Allora, Saipem, diciamo meno 34,38%, che cosa è successo su Saipem? È successo, pensate che oggi ha bruciato in borsa 4 miliardi e mezzo di euro in una sola seduta. È successo che dopo il profit warning di ieri, che vuol dire un avviso di utili inferiori alle attese, ieri Saipem ha annunciato che verranno rivisti a ribasso gli utili 2012 e anche gli utili 2013. Per quanto riguarda l'anno scorso, a causa di negoziazioni su variazioni contrattuali nella loro attività di business, vi sarà un EBITDA inferiore di intorno al 1,5 miliardi di euro, meno 6% rispetto alle previsioni, e un utile netto di 900 milioni. E per il 2013 si prevede nel settore dell'engineering e construction onshore una riduzione dell'80% e nell'offshore del 70%. Per il 2014 è atteso un importante rimbalzo, se ho capito. Apriti cielo, e tutte le case d'affari oggi a consigliare di vendere o quantomeno non comprare, ma al massimo tenere. Deutsche Bank, Kepler, Equita, Sim, Intermonte, Sim, Banca, Akros. E questo è un fronte. Poi c'è un fronte su cui sta indagando la Consob. Perché? Che cosa è successo poco prima che Saipem annunciasse una drastica revisione dei suoi utili per l'anno scorso e per l'anno in corso? È successo che è stata venduta. Pensate che fortuna, che bravura a riuscire just in time, no? A vendere poche ore prima di una notizia che ha ammazzato in borsa il titolo, meno 34%, vendere una quota importante come il 2,2%. La vendita è stata realizzata da Bank of America Merrill Lynch per conto di un cliente che non si capisce chi sia, un cliente istituzionale. Il fondo britannico Fidelity oggi ha detto: non siamo noi. E bisognerebbe capire se questo chi ha venduto sapesse, avesse qualche informazione in più, oppure ha veramente un fiuto da tartufi per il crollo in borsa. La Consob non crede al fiuto da tartufi e ha avviato accertamenti sull'operazione di collocamento del 2,2% del capitale di Saipem, cioè della vendita. Pensate che queste 10 milioni di azioni Saipem sono state vendute lunedì con un valore del titolo che era di 31 euro, adesso ne vale 20. Ma ce ne rendiamo conto? Quindi l'avesse venduta ieri o anche oggi ci perdeva un 30%. Chissà come ha fatto. Fiuto da tartufo ha avuto Draghi, soggetto istituzionale che ha venduto il 2,2% di Saipem poche ore prima che il titolo crollasse. Oggi ha perso il 35%. Noi però siamo un po' maliziosi e cattivi e non ci crediamo, nel senso che quando uno vende tramite Bank of America Merrill Lynch poche ore prima che il titolo poi annunci una revisione così brutale degli utili, il sospetto di insider trading e quindi di conoscenza di quello che sta per avvenire. Uno va a vendere una quota, pensate, ripeto, a 31 euro per azione, adesso ne vale 20. Troppa grazia, Sant'Antonio. E allora torna nostro ospite, il collega del Sole 24 Ore, Fabio Pavesi. Buonasera Fabio. Buonasera a te e agli ascoltatori. Allora, grande intuito alla Warren Buffett oppure utilizzo di informazioni riservate? Ma lascio decidere a voi la tempistica, è quantomeno sospetta, esattamente qualche ora prima dell'annuncio di un profittuone. Poi noi lo chiamiamo profittuone, ma questo altro che allarme utili. Ecco, perché quando una arriviamo società, anche a questo. E allora evidentemente qualcuno sapeva, perché io non ho mai creduto alle coincidenze, come dire, così meccaniche. È ovvio che chi ha venduto ieri sera si è salvato, nel senso che ovviamente non ha imbarcato una perdita del 30%. E lì l'impressione è, se uno guarda il grafico del titolo, allora Pietro Franco Tali, l'ex presidente, si dimette il 5 dicembre per uno scandalo tangenti. È vero. Tangenti uno, però con la Sonatrach in Algeria. In Algeria. Sono tangenti, la Saipem fa esplorazione petrolifera, lavora in tutto il mondo. E vabbè, insomma, salta fuori questo scandalo, si dimette il presidente, 5 dicembre, attenzione alle date. A novembre, a settembre il titolo tocca il suo massimo storico, valeva 40 euro, tenete conto che qualche anno fa veniva da 10 euro, cioè dopo la crisi Lehman, Saipem ha fatto una cavalcata da 10 euro a 40, eravamo sui massimi. Allora, succede che in realtà se uno guarda il grafico, dopo le dimissioni di Tali c'è una caduta improvvisa, la gente vende ovviamente, si spaventa, si dimette, scandalo tangente. Ma se uno va a vedere con attenzione, già da settembre c'è un flusso di vendite abbastanza costante che fa scendere il titolo da 40 euro circa a 33. Allora, a me viene un sospetto, nel senso che l'impressione è che gli investitori istituzionali siano sempre un pochino più tutelati degli altri. Sappiano le cose prima. Perché i motivi sono tanti, è un investitore di lungo periodo, è ovvio che se tu freghi un fondo americano, quel fondo americano te la farà pagare domani ovviamente. Certo. E quindi probabilmente, ripeto, sono tutte supposizioni, però insomma ci si azzecca spesso e volentieri. È, come dire, è quantomeno anomalo che a un certo punto tu vedi che un titolo sui massimi con prospettive di crescita veda improvvisamente flussi di vendite, e quelle vendite interessano, guarda caso, gli investitori, quelli importanti della società, quelli di cui potrai avere bisogno nei prossimi, magari un domani ti serve fare un collocamento, certo. Allora quel fondo ti torna utile. A volte le aziende, ma si è capito chi ha venduto? Non si è capito, si capirà, la Consol sta istruendo un'istruttoria, però ripeto, siamo di fronte qui a una doppia, come dire, storia. Quella ovviamente di una sorta di vendita sospetta, assai sospetta, e quella di un vero e proprio disastro. Perché quando il management nuovo annuncia che l'anno prossimo dimezzerà l'utile operativo, è come se Saipem tornasse a fare gli utili operativi che faceva nel 2007, cioè prima della crisi Lehman. È un disastro. Perché io capisco quando uno dice faccio il 10% di utili in meno, ma non il 50%. E questo è il motivo per cui il titolo è precipitato oggi. Scrive un ascoltatore, a volte lei fa troppo terrorismo mediatico, insider trading, ma dai. No, forse ha ragione lei, domani si mi ospita nella sua casa di marzapane, vengo a mangiare a colazione, perché è bello il mondo lì, no? Ma per favore. Avete presente quanto ci ha risparmiato chi ha venduto poche ore prima 10 euro per azione? Ha venduto 10 milioni di azioni, quindi a casa mia ha risparmiato 100 milioni di euro. Altro che casa delle bambole e cappellaio matto, va. 100 milioni di euro, il soggetto che ha venduto ieri ha risparmiato con questa... intuito, a mio avviso, con questa informazione 100 milioni di perdite. Ma chi per 100 milioni di euro non metterebbe in piedi in quel mondo lì qualunque tipo di contatto? Ma dai, ma per favore. com'è possibile che un gruppo che tu ricordavi era stato il gruppo più anticiclico in borsa da quando è scoppiata la crisi del 2008? Poi Saipem fa esplorazione, per cui è una delle società leader nel mondo, bravissimi, e quindi ha tutto un mercato che va dall'Oceano Pacifico a quello Atlantico, onshore e offshore, quindi non solo in mare. E com'è stato possibile cannarla, uso un termine poco finanziario, cannarla in maniera così palese sugli utili previsti per il 2012 e quello per il 2013? Perché qua le revisioni sono pazzesche, no? Addirittura per l'anno in corso, meno 80% nell'onshore, l'EBIT è meno 70% nell'offshore, cioè un altro mondo. Beh, se guardi bene, sono proprio spalmate su tutte le attività della società, cioè non è un buco in una divisione, lì è spalmato su praticamente tutta la società. E Saipem avrei dovuto fare l'anno prossimo 1,5 miliardi di utile operativo, ne dichiara 750 milioni, proprio letteralmente dimezzato. E ripeto, torna a fare gli stessi utili faceva nel 2007, come se ha bruciato 5 anni di vita. Allora lì la sensazione, come dire, è che in realtà forse, ma ripeto, molto con le pinze, ma va segnalata. Se tu tagli così tanto è perché evidentemente qualcuno ha voluto fare una drastica pulizia di bilancio. Non so, sì. Oggi sono all'opera i banchieri nuovi, insomma, Profumo e Viola su MPS. Stanno facendo pulizia di bilancio. Viola sì, dai, Profumo non te la faccio passare. No, infatti, nuovo. Questa è quasi allora una gaffa. Sono un nuovo conduttore di Focus Economia. Questa è una gaffa involontaria. Però quando accadono revisioni così drastiche e vengono annunciate, come dire, come un fulmine a ciel sereno. Potrebbe essere un po' di pulizia interna. È una pulizia, cioè, probabilmente. È difficile che la prospettiva, diciamo, industriale muti così drasticamente da un mese all'altro, perché vuol dire l'80% in meno nei contratti nell'attività onshore e il 70% in quello offshore. Sarebbe come se fossero stati stracciati 7 contratti su 10 nell'offshore e 8 contratti su 10. L'impressione è che si sia preferito stracciare quei contratti in odore di tangente, perché se l'inchiesta è sulle tangenti e ha portato le dimissioni del presidente Pietro Franco Tali, evidentemente il nuovo arrivato ha detto: sai cosa ti dico, per non sapere né leggere né scrivere io annullo i contratti dove penso che ci sia possa stata una tangente. E in questo ricordo un po' l'operazione di Viola e Profumo su Monte dei Paschi, cioè sono arrivate e detto: sapete che vi dico, se aspetto un altro po' daranno la colpa a me, apriamo i cassetti, esatto. E vediamo dare la colpa alla precedente. L'impressione è che sia accaduta questa gestione. Storia. Noi adesso andiamo proprio sul Monte dei Paschi, fanno notare gli ascoltatori una cosa, giustamente, però poveretto chi si è comprato ieri i 10 milioni di azioni pagando 100 milioni di euro, cioè perdendoci 100 milioni di euro nell'arco di 10 ore. Avete ragione, tutta la nostra comprensione. Grazie a Fabio Pavesi, non si riesce a stare tranquilli neanche un giorno oggi in queste puntate sulla borsa. Saipem meno 34,29%, Monte dei Paschi meno 9,5% e poi anche Fiat male oggi, meno 4,80%. Ovviamente la controllante di Saipem, l'ENI, ne risente pesantemente, meno 4,70%. Tra gli altri titoli, Mediaset meno 4,40%, Finmeccanica pure, Banca Popolare di Milano meno 4,20%, Banco Popolare meno 3,70%, come Unicredit, A2A meno 3,30%, UbiBanca meno 3,1%, Pirelli meno 2,80%, Mediobanca meno 2,40%, come la Popolare Emilia Romagna. Impregilo e Tenaris perdono il 2%. Oggi la borsa vi dovete accontentare del mio commento, perché i colleghi di Radio Colle sulle 24 ore sono in assemblea sindacale. Tra l'altro oggi, dopo il tracollo della Saipem, vi sono state una raffica di sospensioni per eccesso di ribasso: Banco Popolare, BPM, Finmeccanica e anche Monte dei Paschi stessa. Milano è purtroppo la borsa peggiore oggi in Europa, meno 3,36%, Parigi meno 0,50%, come Francoforte, Londra meno 0,30% e l'America invece in questo momento è invariata. Di Fiat parliamo dopo. Tra i titoli positivi cito solo Luxottica, più 2,26%, si salva oggi anche Salvatore Ferragamo, più 0,30%, come Atlantia. Poco mossa Telecom Italia, praticamente invariata. Tra i migliori e peggiori in assoluto, El Venture Group più 23%, Trevi finanziaria più 9,20, Boero Bartolomeo più 7% come Stefanel, il peggior titolo, che ve lo dico a fare? Direte voi, Saipem, no, Seat pagine gialle sulle risparmio, ma ormai Seat pagine gialle non c'è quasi più come titolo. 0,0028 vale l'azione ordinaria, che ha perso oggi un altro 9,70%, sulle risparmio ha perso il 36,5%, PMS perde l'11,5%, e poi Monte dei Paschi meno, dov'è? Meno 9,46%. Adesso c'è il traffico, ma noi restiamo con i temi di borsa perché c'è la vicenda Monte dei Paschi, e ci mancherebbe, dopo Saipem, Monte dei Paschi, due storie molto molto molto diverse, anche perché sul Monte dei Paschi la magistratura continua ad ampliare il fronte delle indagini. A 7:48 minuti mi fate notare che non ho detto come è messo l'euro, avete ragione. Euro su dollaro in rafforzamento, è 1,3568 anche oggi. Allora, dicevo, poi ascolteremo anche cosa ha dichiarato il premier Mario Monti dai nostri microfoni sulla vicenda Monte dei Paschi, però occupiamoci adesso della parte giudiziaria. La procura di Milano infatti ha inviato a Siena tutte le carte dell'inchiesta che ha al centro la finanziaria svizzera Lutifin, e sono stati spediti ai PM Antonio Anastasi, Giuseppe Grosso e Aldo Natalini, titolari del fascicolo su MPS. L'inchiesta di Milano, che si è chiusa lo scorso novembre nei confronti di 18 persone per i quali adesso si appresta a chiedere il processo, in quell'inchiesta la Guardia di Finanza aveva accertato che Lutifin era stata utilizzata quale veicolo per effettuare pagamenti riservati nei confronti di alti dirigenti del Monte dei Paschi in cambio dell'acquisto da parte dell'istituto da cui dipendevano di un pacchetto tra cui alcuni derivati che presentavano forti perdite per Dresdner Bank. Vediamo di spiegarlo. Mettiamo che tu sia un manager, magari il direttore finanziario del Monte dei Paschi, e ti metta d'accordo per ricevere delle tangenti. Perché? Perché fai acquisire alla banca strumenti derivati e in cambio vuoi essere ricompensato sotto banco. Come fai? Beh, se tu non volessi le tangenti, andresti direttamente da questa banca, in questo caso è Dresdner, e diresti: vorrei comprare un certo numero di titoli derivati perché per me sono un investimento. Ma se tu sei un manager che ci vuole guadagnare, fai un'altra cosa, metti di mezzo un intermediario che è fittizio, che non serve a niente, ecco il ruolo della Lutifin secondo i PM. A questo punto la Dresdner vende alla Lutifin un pacchetto di derivati, la Lutifin li rigira al Monte dei Paschi, si fa pagare una commissione di consulenza, 600.000 euro, stando a quello che abbiamo visto. Consulenza per cosa? Non è che la Dresdner Bank non fosse in grado di vendere da sola questi titoli al Monte dei Paschi. Lo stesso capo allora di chi poi ha parlato della gola profonda, Antonio Rizzo, all'epoca funzionario della Dresdner Bank, il suo capo Lorenzo Cutolo, gli dice: ma perché abbiamo dovuto pagare questa cifra? Non se lo sanno spiegare i due, potevamo farla tranquillamente noi questa operazione. Però dall'alto vengono bloccati e si dice: andate avanti, continuate a pagare. Beh, il sospetto adesso è chiaro, perché lo stesso Rizzo racconta ai magistrati: i due, Pontone e Baldassarri, erano soprannominati dall'uomo che per Dresden Bank si occupò della vendita dei prodotti finanziari, erano soprannominati la banda del 5%, in realtà la tangente era dello 0,5%. Tra le operazioni al centro dell'inchiesta infatti c'è l'acquisto da parte della banca toscana, dell'MPS, di un derivato della Dresden Bank da 120 milioni di euro. Ora, non è l'unica rogna che sta spuntando, perché secondo quanto anticipa il settimanale Panorama, vi sarebbe, oltre agli ormai noti le operazioni Alexandre Santorini, anche un'operazione Chianti Classico, che nulla a che vedere col vino, ma è un'operazione di cartolarizzazione immobiliare da cui il Monte dei Paschi sperava di guadagnare, e invece dopo lo scoppio della bolla e la crisi finanziaria sembra che da quell'operazione Chianti Classico il Monte rischia di avere una perdita di 150 milioni di euro, un Chianti Classico un po' amaro. 500 milioni, scusate. Raffaella Calandra, in partenza per Siena. Domani arriverà qualcosa da Siena? Ma questo non possiamo saperlo. Quello che possiamo sapere è che l'indagine sicuramente sta maturando, diciamo così, e che c'è aria di una svolta, perché oltre alla ricostruzione dei bonifici che sono stati trovati con i movimenti, un giro di bonifici verso l'estero, oltre all'individuazione anche di circa 20 milioni su conti di Gianluca Baldassarri, che citavi prima, il Gordon Gekko di Siena, come è stato soprannominato, ora a parlare ai magistrati c'è anche un super testimone, che è appunto un Valentino Fanti, già segretario del Consiglio di Amministrazione della banca, che sta riempendo pagine di verbali su quello che avveniva all'interno di Rocca Salimbeni, e quindi di sicuro, diciamo, gli elementi nelle mani dei magistrati si arricchiscono di un quadro che è più ampio rispetto a quello che in questi mesi, perché da maggio del 2009 con le perquisizioni fatte allora, materiale che stanno accumulando da allora, ma ora con questi nuovi verbali, con queste nuove dichiarazioni, diciamo il salto di qualità, per dirlo con un termine investigativo, sembra essere vicino. Ecco, quello che sta emergendo, voglio essere molto chiaro, un conto è se un banchiere o un gruppo di manager sbaglia delle operazioni, per esempio l'acquisto di Anton Venta, stante così le cose uno potrebbe dire l'avete pagata carissima, però poteva essere giustificata visto che il mercato continuava a salire. Cioè, un conto è sbagliare delle operazioni, scommettere, come magari nel caso di una cartolarizzazione del patrimonio immobiliare, che il prezzo degli immobili sarebbe salito e poi ti scoppia la crisi del 2008. Altra cosa è creare operazioni artatamente, in maniera artificiosa, finanziarie per ricavare delle tangenti da queste. Nel senso che un conto è un errore, e poi uno pagherà, anche magari venendo allontanato dalla banca, ma un errore in buona fede, cercando di fare speculazione finanziaria, ma in buona fede. Altra cosa è se si scopre che l'acquisto dei derivati da Dresdner è avvenuto perché in realtà c'era una promessa, diciamo, di una ricompensa per i manager del Monte dei Paschi, che avrebbero fatto acquistare al Monte dei Paschi questi derivati. È chiaro, no, il profilo su cui si muove la magistratura, Raffaella? Sì, esatto, cioè è un po' quello che tu hai già raccontato prima e che dicevamo due giorni fa, sempre qui a Focus. Cioè, stando a quello che in questo momento è stato accertato, o meglio, che è sul tavolo dei magistrati di Siena, l'accusa è che abbiano in qualche modo preso delle proprie commissioni, chiamiamolo, delle proprie delle tangenti, chiamiamole, insomma, così, da un no, perché se sono politici sono tangenti, se sono manager di banca sono commissioni, sono tangenti tutte e due, Raffa, dai. Sì, no. Però diciamo dobbiamo vedere quello che viene ricostruito. Ipotesi di tangenti. E in questo momento, diciamo, le verità ancora non possono essere definite tali. Il sospetto però è quello, e quindi il sospetto è che ci siano stati queste tangenti prese da dei manager per far sì che la banca stessa, come ricordavi prima, si accollasse un pacchetto di titoli, che però appunto è accollandosene anche le perdite. Infatti quello che la Guardia di Finanza di Milano scriveva, che lo scopo di tutta questa operazione avvenuta attraverso l'Utifin era proprio quello di far ristrutturare il pacchetto a Monte dei Paschi, che di fatto sostituiva i titoli in sofferenza con altri in salute, in modo tale, e sto leggendo dalla relazione della Guardia di Finanza, da consentire a Dresdner Bank di neutralizzare le perdite scaricandole su MPS. Cioè, quello che interessa ai magistrati capire è perché si sia arrivati a partorire operazioni finanziarie discutibili come Alexandria, Santorini, Nota Italia, ora Chianti Classico. Perché la banca è arrivata a quel punto e cosa ha portato a questa situazione di affanno del dissesto? Aggiungo una piccola chicca che ho recuperato tra le carte che da Milano sono arrivate oggi a Siena. Inchiesta sempre l'Utifin, atto di rogatoria mandato da Milano per chiedere dei documenti a Monte Carlo. Ebbene, sempre nella sintesi degli interrogatori che questo ex dipendente di Dresdner ha fatto, si riferisce che l'istituto di credito, ossia Dresdner, pagava delle commissioni ad un'altra società di diritto irlandese, la Silver Castle. Questa è un'altra vicenda di crediti, sì, veloce, sia sanitari, però qual era, perché le pagava? Perché pagava mazzette che poi Dresdner Bank pagava a questa società di intermediazione per far girare i soldi e per ottenere una sfilza di favori in cui si era un capo sanitario. Cioè, è un sistema che sembra emergere e che sembra essere più diffuso di quanto non si credesse all'inizio. E questo è il vero altro fronte, secondo me. Lo faceva solo il Monte dei Paschi? Raffaella, grazie, buon viaggio verso Siena. I poteri ci sono stati, gli interventi ci sono stati e sono stati interventi forti. Abbiamo del resto visto il cambiamento dei vertici al Monte dei Paschi, anche a seguito di interventi della vigilanza. Evidentemente non sono bastati, evidentemente se si mettono in opera comportamenti di occultamento di documenti, come sembra ci sia stato, evidentemente questo pone un grosso problema anche all'autorità di vigilanza. Rafforzare i poteri, ormai il tema della vigilanza bancaria è largamente di competenza europea, il ruolo delle singole autorità di vigilanza nazionali, nel nostro caso la Banca d'Italia, rimane importante, ma è ancora più importante che ci sia uno stretto coordinamento e, come dire, anche un'assimilazione delle best practices, dei migliori comportamenti da parte delle diverse banche centrali. Devo dire che è noto nella comunità bancaria internazionale e delle autorità di vigilanza che la Banca d'Italia oggi governata da Visco e la Banca d'Italia ieri governata da Draghi sono tra le istituzioni che vengono considerate come particolarmente efficaci. Così Mario Monti questa mattina ai nostri microfoni in merito ai controlli e alla vigilanza esercitata, secondo alcuni esercitata male, nei confronti del Monte dei Paschi di Siena. Qualcuno mi scrive sull'interrogativo che mi sono posto: chissà se era solo il Monte dei Paschi a avere questo tipo di triangolazioni. Non lo sappiamo. Il sospetto in questi casi, ma non solo riferito al Dresdner Bank, riferito in generale, se questo utilizzo di società esterne per fare triangolare in realtà e far acquistare, come sembrerebbe dall'inchiesta dei magistrati, al Monte dei Paschi titoli in sofferenza, vuol dire titoli che perdono, dando in cambio titoli buoni. Uno dice: perché devi essere così pazzo da comprarti titoli cattivi e dare in cambio titoli buoni? Beh, non sei pazzo se c'è una commissione, come la chiamo in gergo, una stecca, come la chiamano da altre parti, che ti viene data a te, manager. Faccio presente che il direttore finanziario, che poi si è dimesso, Baldassarri, ha scudato, cioè ha fatto rientrare solo formalmente, i mantelli ancora tenuti all'estero, 20 milioni di euro. Saranno i risparmi di una vita in Svizzera. Perché dubito che uno, può, per quanto bravo come direttore finanza di una banca, possa accumulare in un tempo relativamente breve 20 milioni di euro di risparmi dallo stipendio, dico. Poi interessante anche sapere perché fossero in Svizzera, ma quello, diciamo, è un altro paio di maniche. Volete sapere dell'operazione Chianti? Non se ne sa molto, sembra che sia un altro filone assieme all'operazione Alexandria e Santorini, o l'operazione Chianti classico, che potrebbe rischiare di causare una perdita fino a altri 500 milioni sul Monte dei Paschi. Si trattò di un'operazione fatta nel novembre del 2010, cartolarizzando una parte del patrimonio immobiliare e collocando sul mercato titoli per un valore di circa 1,5 miliardi. La banca si aspettava di incassare 450 milioni, ma poi le condizioni di mercato, cioè il calo dei prezzi degli immobili soprattutto, avrebbe trasformato Chianti classico in una trappola. Questo risulterebbe dai verbali che ha consultato il settimanale Panorama lo scorso 27 novembre e poi l'11 dicembre 2012. Vabbè, andiamo sull'economia reale, perché tra Saipem, oggi volete sapere il dato definitivo per chi si è appena messo in collegamento, Saipem è crollata del 34,29% con quella vicenda, ripeto, di chi ha venduto poche ore prima dell'annuncio risparmiando una perdita di 100 milioni di euro, perché ha venduto 10 milioni di titoli, il titolo ha perso 10 euro ad azione, sono 100 milioni di euro che ha risparmiato con questa grande capacità di preveggenza. Vabbè, andiamo a Grugliasco, Torino, dove la Fiat ha inaugurato lo stabilimento Maserati. Vi sono già in realtà 500 addetti. Marchionne ed Elkan hanno parlato Il presidente della Fiat ha detto: sono scelte, abbiamo fatto scelte difficili per restare in Italia. Marchionne ha aggiunto: il nostro impegno è serio, una strategia precisa. Inizia una nuova era per la Maserati. E puntiamo ad avere a produrre 50.000 Maserati entro il 2015. C'è il nostro Andrea Malan. Andrea, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, Andrea, non si è parlato solo di Maserati, ma anche e soprattutto dell'impegno della Fiat, dei conti della Fiat, e poi arriveremo anche della Fiat strattonata per fini politici, Andrea. Beh sì, si è parlato un po' di tutto, i conti se vuoi li lasciamo dopo, i conti sono stati approvati al CDA proprio stamattina lì nello stabilimento, è la prima volta che si tiene in una fabbrica e sono numerosissimi, cercheremo di sintetizzare un attimo. Marchionne ha ribadito la strategia che sta dietro a questa inaugurazione di Grugliasco, che è quella di puntare sull'alto di gamma con la Maserati e poi eventualmente con l'Alfa Romeo, di fare in sostanza di Grugliasco e Mirafiori, che in linea d'aria a qualche chilometro, un polo unico specializzato appunto nelle vetture di alto di gamma. Ci sono già parecchi dipendenti di Mirafiori che lavorano a Grugliasco, Grugliasco ha meno di 1.000 dipendenti, quindi in teoria non basterebbero a produrre i 2 o 3 modelli di alto di gamma che man mano dovrebbero venire spostati lì. Quindi si creerà un polo di questo tipo in maniera ancora non del tutto chiara. Marchionne su Mirafiori ha volutamente tenuto le carte ancora molto coperte, dato che sappiamo tutti che è un tema estremamente delicato per la Fiat, dato che è lo stabilimento storico lì a Torino. E poi appunto, come dicevi, si è parlato anche di politica, ribadendo che la Fiat non vuole essere tirata dentro in nessuna campagna. Ecco, ascoltiamo questo passaggio, perché così prima a Chito può sembrare anche un po' misterioso il riferimento di Marchionne. Non intendo entrare nelle polemiche recenti, sono l'ennesima prova che la Fiat viene usata per fini politici e questo purtroppo succede in un momento particolarmente delicato per l'Italia. Confondere i compiti e le responsabilità del mondo politico con quello dell'industria, usarne una per coprire l'altra, non solo è assurdo, è soprattutto dannoso. Possiamo usare la Fiat per ridare all'industria italiana un futuro diverso e molto migliore, possiamo usarla per il contributo che può offrire in termini di investimenti. Ma con chi ce l'aveva in particolar modo Marchionne? Il riferimento era alle polemiche che ci sono state circa 15 giorni fa, quando è stato fatto l'annuncio della richiesta di cassa integrazione straordinaria a Melfi. Si era scatenato il giorno stesso un putiferio, certo, di polemiche politiche dicendo Melfi chiude, non ci sono prospettive, eccetera. Poi Fiat aveva appunto precisato che rientrava nella richiesta negi investimenti per fare 2 nuovi modelli, poi ovviamente si può discutere quanti mesi servano a riattrezzare uno stabilimento, a risistemarlo, comunque ha precisato che era per un massimo di 2 anni e che si sperava di farcela in meno tempo e comunque insomma sappiamo che appunto da un lato il meccanismo della cassa integrazione esiste e in questo periodo sta dando un aiuto importante a Fiat da un lato e ai suoi operai dall'altro, in una situazione in cui, ricordiamolo, quasi tutti i concorrenti in Europa stanno chiudendo stabilimenti e tagliando. Marchionne ha ribadito oggi che non lo farà e sappiamo che può farlo anche grazie al fatto che in Italia esiste un meccanismo di questo tipo che in media le aziende pagano, ma di cui ovviamente le aziende che usano molto la cassa integrazione nel periodo in cui la usano usufruiscono. Quindi è un meccanismo, diciamo, di, sappiamo tutti che esiste un sacco di tempo. Marchionne oggi, a una domanda di un analista straniero che non capiva bene il meccanismo, ha detto: certo, è una cosa che era stata pensata in Italia per far fronte a periodi temporanei di calo della domanda. Qui siamo di fronte a una crisi che va avanti da anni, per cui è chiaro che c'è un utilizzo che porta a un utilizzo molto maggiore di quanto la cassa integrazione probabilmente venga rimpolpata dai contributi delle aziende. Ultimo aspetto, dicevamo i conti, utile netto 2012 oltre l'attesa 1,4 miliardi per il gruppo Fiat, è tutta roba Chrysler però? È tutta roba Chrysler. Chrysler da sola fa 1,7 miliardi di utile netto e poi viene diluito questo utile nel... Dunque, Chrysler in realtà fa 1,7 miliardi di dollari, che sono 1,4 miliardi, esatto, in euro nei criteri contabili americani. Nei criteri contabili europei Chrysler fa 2,4 miliardi di utili. Perché? Perché praticamente Chrysler con i criteri europei può capitalizzare le spese di ricerca, quindi le toglie dai costi. Questi 2,4 miliardi si contrappongono a 1,6 miliardi di perdita netta di tutto il resto, che arriva per il grosso dall'Europa. Sappiamo che in Brasile e in America Latina Fiat guadagna circa 1 miliardo, anche se quest'anno è un poco calato. Sappiamo che guadagna abbastanza bene con Ferrari e Maserati, sono tornati in nero anche i componenti, quindi i grossi problemi sono, lo sappiamo, della produzione di auto in Europa, e sappiamo che c'è una grossa crisi, che tutti perdono. Quindi se io dicessi che il gruppo Fiat è inutile solo grazie a Chrysler, insomma questo è, no? Cioè, 2 miliardi e 4 con i criteri contabili europei per Chrysler di utile, 1 miliardo di perdita per il resto del gruppo, no? Diciamo che è assolutamente corretto. Del resto, anche le vendite di Chrysler sono andate bene, perché più 18% nel 2012 e 2 milioni e 2. Sì, ricordiamo che oramai Chrysler pesa per più di metà delle vendite del gruppo. Su 4 milioni e 2 di auto vendute sono all'ingrosso 2 milioni in negli Stati Uniti e America del Nord, 1 milione in Brasile, 1 milione solamente in Europa e 200.000 in Asia. Diciamo che la sfida nei prossimi anni per Fiat sarà sicuramente tenere in Europa, se possibile, e cercare di crescere in Asia, dove è ancora molto poco presente, per compensare eventuali erosioni di competitività in Brasile. Sappiamo che in Brasile Fiat è numero uno, però è un mercato talmente importante e profittevole che fa gola a molti, c'è un forte aumento della concorrenza. Grazie Andrea Malan. Adesso le informazioni sul traffico e poi chiudiamo, non in bellezza, perché parlare di fisco non è mai bello, ma ne parliamo perché oggi si è tenuta l'edizione annuale del convegno Telefisco con l'appuntamento con l'esperto risponde. 103 sedi collegate, domani 12 pagine di speciale sul Sole 24 Ore, l'intervento di Attilio Befra ve l'abbiamo fatto ascoltare nella prima ora del programma, oltre 12 miliardi di euro recuperati dall'evasione, però insomma è chiaro che in questo momento il fisco, oltre che essere tema quasi unico, quasi monomaniacale della campagna elettorale, vede per i cittadini normali, per tutti i contribuenti, il tema redditometro e controlli incrociati come grande spauracchio. Anche su questo è intervenuto comunque Attilio Befara. Ultima parte alle 18:20 minuti di Focus Economia. Dicevamo, volete sapere ancora, vedo molti ascoltatori che si sono appena collegati, do per l'ultima volta il calo di Saipem a 20 euro per azione, ha perso 10 euro in una giornata, il 34% bruciata capitalizzazione per 4,5 miliardi. E volete sapere di Eni, che è la controllante, giustamente meno 4,71%. Brutta giornata anche per Eni, oltre che per Fiat, meno 4,80, e Monte dei Paschi meno 9,46%, ma ripeto, su Monte dei Paschi attenderei la giornata di domani, così a giudicare da qualche uccellino senese, poi magari sono uccellini distratti, però attenderei la giornata di domani per vedere che cosa, e avremo un lungo collegamento con la nostra Raffaella Calandra da Siena. Parliamo di fisco, quello per tutti gli italiani. Sedi collegate in tutta Italia, vari temi toccati dall'edizione annuale di Telefisco. Ha coordinato il tutto il nostro Salvatore Padula, del Sole 24 Ore. Salvatore, buonasera. Buonasera a tutti. Quanti collegamenti avete? Dammi una prima stima. Avete avuto tutti i collegamenti anche via internet? No. Guarda, devo dire che è stata un'edizione veramente al di là di ogni più rosea aspettativa. Abbiamo avuto queste 103 sedi collegate in tutta Italia, che effettivamente è un record. L'anno scorso erano 74, mi piace ricordarlo. Abbiamo avuto un accesso straordinario anche alla piattaforma internet, che consentiva di seguire via streaming tutto il convegno. Ricordiamo che ancora adesso è possibile acquistare l'intero convegno su internet, sul sito internet del Sole, e devo dire che insomma è stata un'edizione importante anche per le tanti aspetti, diciamo, molto tecnici, forse qui non è il caso di approfondire, però insomma i tanti aspetti tecnici che sono emersi. Scusatemi, io sono ancora con i postumi dell'influenza. Salvatore, le domande più frequenti, immagino IMU, i controlli, ma IVA per cassa, temi anche molto classici, tecnici, il redditometro. Ma dunque il redditometro, abbiamo avuto tantissime domande sul redditometro. In realtà noi stessi avevamo fatto numerose domande all'Agenzia delle Entrate, che ricordo oggi durante la trasmissione Telefisco ha risposto ai nostri quesiti. Devo dire che evidentemente siamo ancora un po' nella fase di avvio, di partenza, quindi Befera ci ha detto oggi che andranno a fare una circolare che però non uscirà prima di un paio di mesi, quindi diciamo sulle questioni più che forse più interessano i contribuenti in questa fase, ne cito una, insomma. Ecco, avevamo chiesto all'Agenzia delle Entrate, vabbè, ma diciamo, se io mi compro la casa, no? Quell'acquisto lì rileva in un unico, nell'anno in cui l'ho fatto, o può essere, come normalmente avviene, spalmato? Altra domanda che riceviamo spesso è se io faccio un acquisto eccezionale quell'anno, non so, decido che voglio spendere una cifra superiore agli altri anni per un viaggio, perché devo festeggiare il mio anniversario, oppure voglio festeggiare qualcos'altro, la fine del mio matrimonio, quel cavolo che vuole, però dico, sono, diciamo, quella cosa lì mi fa entrare subito nel redditometro perché l'anno prima avevo speso un terzo per le vacanze. E purtroppo la risposta che abbiamo avuto dall'Agenzia delle Entrate qui è abbastanza deludente, perché l'agenzia dice sì, la norma prevede che le spese devono comunque rilevare nell'anno in cui vengono effettuate e poi toccherà al contribuente andare dall'Agenzia delle Entrate e dimostrare che quella spesa lì è il frutto di risparmi, diciamo, degli anni precedenti. Però devo ricordare che la stessa Agenzia delle Entrate nei giorni scorsi aveva invece aperto uno spiraglio, no? Era sembrato di capire che, come avviene per il redditometro attuale, quello che ormai chiamiamo quello vecchio, insomma, le spese sarebbero state automaticamente dal fisco spalmate, diciamo, almeno in quattro anni. Quindi, però, ecco, mi sembra che anche da parte, e guardando un po' i tantissimi quesiti che sono arrivati sul redditometro, stiamo parlando probabilmente di uno degli aspetti, delle novità, diciamo, che più incuriosiscono in questa fase. Sei troppo buono, inquietano. Inquietano e incuriosiscono. Tieni presente che questo era un pubblico di operatori, quindi un pubblico di professionisti, commercialisti, tributaristi, eccetera. Quindi, diciamo, hanno una visione leggermente diversa da quella del contribuente comune, dalla gente comune. Ecco. E quindi su questo abbiamo anche un Befera che, insomma, ha risposto in maniera un po' piccata, ha detto: ma ho sentito dire cose illogiche quanto all'onere della prova. Quando noi facciamo un accertamento, è l'accertamento che noi facciamo, è un'attività unilaterale, è un'attività che fa l'agenzia, dopodiché dà un avviso, fa un verbale e così via, e si apre un dibattito con il contribuente, che può dimostrare che quanto abbiamo noi valutato non è corretto per motivi interpretativi, perché ci sono dei documenti aggiuntivi, ci sono dei chiarimenti di qualsiasi natura che possono essere portati. E in quella fase di contraddittorio si addiviene ad una modifica, addirittura all'autotutela, cioè cancella totalmente l'accertamento. Con la stessa logica c'è nel redditometro, non cambia nulla, con un miglioramento dato dal fatto che l'incontro con il contribuente avviene due volte, una prima volta in via non ancora formalizzata, con un avviso di accertamento che non è ancora partito, e un secondo invece in sede di accertamento attraverso il normalissimo contraddittorio. Quindi non c'è inversione dell'onere a prova, o c'è sempre inversione dell'onere a prova se in qualsiasi atto che noi facciamo il contribuente può dimostrarci dei nostri errori. Vabbè, vedo molti messaggi scettici sul fatto che, insomma, in automatico uno entrerà nel redditometro quando avrà una spesa non improvvisa, ma fuori da quello che sono state le spese degli anni scorsi. Fino a quando si possono mandare le domande, comunque? Quindi anche si possono mandare fino a domani. Anche domani sarà possibile inviare domande attraverso il sito Telefisco sulla home page del Sole 24 Ore. Allora, in bocca al lupo, grazie a tutti i colleghi di Telefisco. Appunto, fino a domani le domande e poi le risposte degli esperti del Sole 24 Ore. Noi domani dalle 17 in poi siamo di nuovo qui per parlare, immagino, di Monte dei Paschi, per parlare, immagino, di Saipem e poi di tutto quello che ci riserverà la giornata. Intanto, da Sebastiano Barisoni, auguro di una buona serata.